I sensori rilevano qualcosa. Una massa crescente sull'orbita bassa di MX-201. Allarme! È arrivato. Ha superato la seconda velocità cosmica. Incrocerà l'orbita della nostra nave tra 120 secondi. Presenza di Dark Matter Energy. È la quarta nave da guerra Death Shadow. È l'Arcadia! Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia. Io sono Gabriele, anche se non ho un foglio scritto dove c'è certificato che sono uno scienziato, e quindi vi potete fidare di me, però sono stato immerso nelle ricerche abbastanza da poter dire la mia a riguardo sul fatto che l'atterraggio lunare è stato un montaggio cinematografico, che non è vero, che il Big Bang non esiste, che non siamo venuti dalle scimmie e che la Terra non è un globo come ci è stato insegnato. Volevo riprendere un po' il discorso dell'ammiraglio Byrd e delle missioni in Antartico. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole. C'è stato la missione Fishbowl e la missione High Jump. Fishbowl è tradotto letteralmente è la palla dove sta la palla di vetro dove sta il pesce. High Jump perché High Jump, salto alto? Perché, come ho spiegato, il modello della Terra piatta, siamo circondati da un muro di ghiaccio. In realtà il polo sud non è il polo sud, perché il globo non esiste, ma è un ci circonda. Quindi cosa sono andati a fare in queste missioni? Cosa sono servite? Perché siamo visti noi, io intendo noi, chi ha fatto le proprie ricerche, chi si è reso conto della bugia in cui viviamo, siamo un po' visti come dei lunatici, un po' come degli schizzati, un po' pazzi. La realtà è diversa da quello che ci è stato raccontato. Ma che sciocchezza! Che sta blaterando! Se continua così, l'ordine costituito crollerà! Dobbiamo bloccare l'Arcadia senza perdere un minuto! Quindi abbiamo detto Operazione Fishbowl. Operazione Fishbowl dove sono andati, non sto troppo nello specifico perché sennò poi diventa una lezione di storia e io non sono qui per fare lezione a nessuno, sono qui per dare informazioni e provare a svegliare, a darvi, ad accendere quella fiamma che avete dentro, che si sta spengendo o è totalmente spenta o comunque cerca di bruciare. Quindi vediamo di accendere questa fiamma, accendere questa lampadina e cerchiamo di cambiare le cose, di vedere le cose per quello che sono davvero. Non affidiamoci alle illusioni. È guardando la verità in faccia che potremo compiere un primo vero passo in avanti. Noi non siamo soli. Allora, ci hanno detto che c'è questa fascia di Van Allen radioattiva per cui non possiamo uscire, diciamo, dalla Terra. Chi riesce a farlo? Riesce a farlo la NASA, anche se ci sono dei video rilasciati dalla NASA che ci dicono che non è possibile uscire da questa fascia radioattiva. Ci è stato detto che è una fascia radioattiva, ma è un modo per dire che è il firmamento. Non possiamo uscire dal firmamento, perché nell'operazione Fishbowl sono andati là e hanno ci sono stati svariati test hanno lanciato diversi missili nucleari nel cielo, l'hanno fatto esplodere e dopo sono venuti fuori con questa cosa e c'era questa fascia di Van Allen che impedisce alle cose sia di entrare che uscire praticamente. L'operazione High Jump è per l'appunto perché c'è questo muro di ghiaccio, che se andate a vedere, se andate a cercare le foto, potete vedere quanto è davvero grande. Questo muro è enorme e è una distesa di ghiaccio. È una distesa di ghiaccio, no, non so quanto, penso sembra infinita, ma sicuramente non lo è. Le immagini che ci danno dai satelliti sono chiaramente modificate, non si vede alcune cose, molte cose sono oscurate o hanno una qualità, penso forse nemmeno il telefono a gettoni avrebbe. Eppure ci sono persone che prendono in giro e non prendono sul serio queste cose. Perché non devi prendere sul serio queste cose, mi chiedo io. Perché ormai siamo in uno stato di quasi vegetativo. Agiamo per abitudine e non perché ragioniamo. Questo è perché chi vede quelli come me li vede come degli schizzati o un po' pazzi, perché agiamo fuori dagli schemi, pensiamo fuori dagli schemi, bisogna pensare fuori dagli schemi, e questo essere liberi mentalmente. Poi certo il corpo è ancora schiavo del sistema, dei soldi principalmente, e da lì un po' è partita la menzogna. Quindi abbiamo detto operazione High Jump, quindi lui era a capo, l'ammiraglio Byrd era a capo di un'intera flotta di portaerei, tra cui 13 navi di supporto, e ha portato oltre 470 persone al Polo Sud per ragioni che non ci è dato sapere. Alcuni dicono che stavano dando la caccia alle truppe naziste che si erano rifugiate là, nonostante la Germania si fosse arresa già da un anno. Altri dicono che c'era una base nazista fatta costruire durante la guerra, ma tutte queste cose non sono importanti per questa puntata. Quello che ci interessa è che l'America ha mandato un'eccessiva quantità di forze militari nel ghiaccio con l'intenzione di una missione pacifica, e mi fa strano, mi dà da pensare. Comunque, al ritorno di questa operazione ha rilasciato molte interviste, di cui quella più interessante è quella che vi ho fatto sentire, fatta nel 1954. Durante questa intervista disse che aveva trovato un'area oltre il Polo Sud grande quanto gli Stati Uniti, in cui nessuno aveva mai messo piede prima. Disse ci sarebbero state altre missioni anno dopo anno, perché il governo americano era fortemente interessato. Ricordiamo che disse che era il posto più importante e ricco di minerali e interesse mondiale e per la scienza, che comportava il futuro delle nazioni, un'inviolata riserva piena di risorse che includono petrolio, carbone e molti altri minerali come l'uranio. Disse che c'era molte nazioni interessate all'Antartica, tra cui Russia, Australia, Argentina, Cile e Nuova Zelanda. Durante l'intervista l'ammiraglio parlò della prossima missione che sarebbe avvenuta, che è l'operazione Deep Freeze, dal 1955 al 1956. Quindi la missione era finita e sarebbe dovuto tornare a casa. Qui dice uno, allora cosa c'è di strano? Quello che è avvenuto dopo, che non è avvenuto niente. Nessuna missione o esplorazione è stata più fatta in quel continente, ma fu fatto un trattato che impediva a qualsiasi nazione di fare praticamente qualsiasi cosa, come ho detto, l'Antarctic Treaty. L'ammiraglio Byrd è andato in televisione dicendo che lo aveva scoperto, e aveva scoperto il confine, la barriera in cui siamo chiusi, come dico io, il firmamento, la cupola, come la volete chiamare. Adesso solo alcune corporazioni in nome della scienza o ricerca possono andare in Antartica, altrimenti è off limits per chiunque, senza nessuna revisione di questo trattato fino al 2041. Potete fare il tour delle isole esterne, ma c'è una linea invalicabile, controllata militarmente, che nessuno può oltrepassare, perché l'interno dell'Antartica è la parte esterna del nostro mondo. È nascosta, è protetta. La terra su cui viviamo è piatta. Quindi poi abbiamo fatto finta di andare nello spazio e siamo dove siamo. Siamo controllati da chi ci dice che siamo andati sulla Luna, che abbiamo mandato un robot su Marte. È provato che le foto di Marte sono finte, sono state fatte sulla Terra. In alcune foto si vede un roditore, io intendo un topo. Quindi le foto sulla Luna, c'è tutte le prove che volete che dimostrano che non siamo mai stati sulla Luna. Quindi prendiamo le cose un pochino sul serio, vediamo di fare qualcosa per cambiare le cose. Io stamani sono uscito e il cielo era completamente limpido. Era limpido, c'era giusto due nuvoline. Poi sfortunatamente ho notato che ieri passavano un sacco di aerei, e oggi invece stamani era completamente limpido, ma dopo poco hanno iniziato a passare non so quanti aerei. Non ho mai visto passare così tanti aerei sopra Montevarchi è la mia città, la amo. Comunque, tutti questi aerei lasciavano una scia. Non sono le scie normali che tutti pensano che siano. Come ho detto forse in qualche altra puntata, non so a cosa servono. Nessuno sa a cosa servono queste strisce che lasciano. Va bene? Vengono chiamate scie chimiche, in inglese chemtrails. Mi preoccupa questa cosa perché nessuno si sta facendo delle domande sul perché succede questo nei nostri cieli, per quale motivo ci spruzzano quella roba sopra la testa, che poi non è solo qui nella mia città, ma è anche nella vostra, in tutto il mondo. Ci sono le foto in America, Londra, Germania, Africa, Giappone, quello che volete. Tutta la terra è piena di questi aerei che passano in su e in giù e lasciano queste strisciate mostruose che coprono completamente il cielo. Una giornata limpida e senza nuvole, bellissima, viene resa, il cielo viene coperto da questo velo che piano piano si distende e copre tutto il cielo. Mi chiedo io, a cosa serve? Serve per controllare i fenomeni atmosferici? Servono per mettere qualcosa nell'aria che poi noi respiriamo, che poi beviamo e mangiamo? Perché sappiamo che quello che è nell'aria poi va a terra e va nell'acqua e nel cibo. L'acqua viene utilizzata per annaffiare le piante, la beviamo, le stesse piante e ortaggi che mangiamo. Quindi cosa c'è in queste strisce? Io sfortunatamente non sono riuscito a trovare risposta. C'è chi dice che c'è alluminio, c'è chi dice che ci sono altri veleni. Fatto sta che non è normale, e potete chiedere a chiunque, nessuno sa di questi aerei. Se io vado, non lo so, a un aeroporto e gli chiedo quali aerei sono passati sopra la mia città, sicuramente, nonostante io ho visto e ho fotografato, ho filmato decine di aerei nel giro di mezz'ora, sicuramente mi dicono che non è passato nessun aereo. Quindi, come funziona la cosa? Io ho intenzione di impegnarmi per cercare di capire, come sto cercando di capire com'è il posto dove viviamo. Sto cercando di capire perché spruzzano queste cose. Ho capito che ci nascondono tante cose. Ci nascondono tante cose, ci hanno fatto crescere con delle bugie enormi, come l'evoluzione, come la gravità, perché è densità e peso di un oggetto e non gravità. Non c'è niente che attira niente verso il basso. Semplicemente, ora la spiego facile, tanti rideranno, mi prenderanno in giro, ma sfortunatamente si renderanno conto che sbagliano. Una cosa più leggera dell'aria che la circonda sale, una cosa più pesa dell'aria che la circonda scende, un po' come nell'acqua. Mi sembra abbastanza semplice, non c'è nessuna forza di gravità ancora, non è stata provata. So che c'è chi è convinto, che in questo momento si sta facendo delle risate mostruose, so che c'è chi è convinto che la gravità è stata provata, ma sfortunatamente per voi non è stata provata in nessun modo. L'unica prova che abbiamo della gravità è che un oggetto cade, ma allo stesso tempo ci sono cose che non sono soggette alla forza di gravità. Quindi mi sembra anche troppo selettiva questa forza di gravità, no? Basta una piccola folata di vento e le foglie volano, però gli uccelli non sono affetti dalla forza di gravità. Quindi, quando intendo che ci sono tante bugie e che il mondo non è come ci è stato fatto vedere, intendo tutto, ma proprio tutto, come per esempio Stonehenge. Stonehenge è stata messa lì, non è che hanno trovato le pietre o no, ci sono le foto e i filmati dove si vede che hanno portato le pietre con i camion e con le gru le hanno sistemate. Dentro quelle rocce c'è l'acciaio, c'è il ferro, quindi sono finte e noi crediamo che siano state messe lì per chissà quale motivo. Oh, Stonehenge fa tutto parte dell'inganno per farci immergere con la testa, farci stare dentro questo sogno dell'uomo scimmia, che siamo nati da una puzza. È assurdo anche che bisogna fare così tanto sforzo anche solo per far vedere una cosa da una persona. Oggi, da quanto siamo condizionati da questo sistema, nonostante le prove, questo sistema di bugie viene difeso. Facciamo finta di essere in una conversazione, io ti mostro, vi mostro quello che le prove, che è tutto finto, e nonostante non ci sia modo di dimostrare quello che ci hanno insegnato, continuate a difendere quelle cose che vi hanno insegnato. Non lo so, fa paura come cosa, è tremenda, è difficile anche poi dopo vivere, perché tu vedi queste persone che si comportano come robot o come zombie, e anche se provi ad aiutarle, ti mandano via, ti deridono e continuano nella loro routine di tutti i giorni. Ora, certo, bisogna vivere, bisogna campare, va bene, questo non significa che non devi vedere, che non devi provare a vedere. Alla fine cosa ti costa? È un po' di tempo della tua vita, invece di stare a guardare magari un film, andare a ubriacarti il sabato o il giovedì o andare in discoteca, ti passi una serata con calma e con criterio e cerchi di capire cosa è vero per te, perché quando ti rendi conto di quante cose sono finte, allora capisci che siamo controllati. Quando ci sono troppe coincidenze, c'è qualcosa e c'è qualcosa dietro. Io la vedo così. Io lotto per la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà della persona. Non lo faccio per me, ma lo faccio per tutti, lo faccio per l'umanità. Sembrano parole di uno partito completamente di testa, ma se vogliamo davvero cambiare le cose, da qualche parte deve partire. E quindi ho deciso di mettermi tutto me stesso in questa lotta, perché è una lotta, è una guerra. C'è chi lotta per questi valori che ormai stanno scomparendo. Libertà è il vessillo di questa nave. Io sono Gabriele, un saluto dall'Arcadia, grazie a Radio Big World e alla prossima, ciao.